ti affianco. Con te ancora dentro e trattenere il respiro un po'. Dormire, dormire con te per ripensare. Dormire con te a me insieme a te. Dormire con te non sono mai stanco. Sognare qui ad aspettare. Forse anche tu ti porterai dietro l'autunno come le prime piogge d'agosto. Forse anche tu, dormire con me. Forse anche tu.